Ah, belli de casa, questa è una puntata assolutamente improvvisata, buttata lì ad gazzum de canem, come dicevano quelli che sanno, perché in realtà dovevo fare una puntata venerdì, la dovevo fare anche il venerdì precedente e quello precedente ancora, ma non l'ho fatta e allora comunque mi sono un attimo fermato, ho preso una piccolissima pausa perché abbiamo ricominciato, anzi io ho ricominciato con la cura farmacologica che sto facendo, che mi sdraia in una maniera incredibile, però insomma adesso piano piano mi sto assuefacendo e quindi va bene sempre meglio. E allora questa mattina, diciamo già da ieri sera, mi ero quasi ripromesso di fare una live così improvvisata, perché? Perché sono successe diverse cose che insomma sono degne di nota, che meritano la nostra attenzione. Infatti questa è una puntata completamente diversa da tutte le altre puntate del Grande Reset, ma soprattutto è una puntata che un po' ruba il mestiere a Sbano, che è esperto di cartoni animati e di sigle dei cartoni animati. Io non ne so una ceppa, lo sapete, insomma. Però insomma, alla fine comunque piace a me, anche a me ogni tanto fare questi excursus. Poi è nato tutto, diciamo, da una bellissima cena ieri sera, monopolizzata da un fatto, ma non ce lo bruciamo subito. Adesso ci giochiamo bene le nostre carte, perché siamo qua insomma una mezz'orettina, forse qualcosa di più, non lo so, dipende da quello che riusciamo a dire. Intanto saluto i presenti di ieri sera, che erano Marco Gualdi, Laura, Walter Sbano, io e Michela, e Shuren e Keila Damer, che insomma alla fine siamo andati in questo posto, ve lo sponsorizzo, sì, sponsorizzo è la parola giusta, vi dico, vale la pena, andateci. Si chiama l'antica abbazia, se non ricordo male, sta a San Giovanni dalle parti di Pontelungo, più che San Giovanni, dalle parti di Pontelungo a Roma, e è già inizia a essere a più tuscolano quello, quindi vicino all'Alberone, per capirci, insomma, proprio per fare dove c'era un cinema dove andavo spesso da ragazzo, e che adesso è diventato un centro commerciale con KFC. È cambiato in una maniera incredibile il quartiere da quando non ci sono più andato. Negli ultimi 2 settimane, 3 settimane mi è capitato di andarci diverse volte dopo tantissimo tempo per fattori estremamente casuali, e devo dire che è veramente cambiato tanto il quartiere, ma d'altronde come cambiano le cose, come cambia il mondo, questo è. E questa sera invece, questa mattina parliamo di una cosa, parliamo di varie cose, perché poi mi sono fatto un po' un quadro mentale per scendere nel baratro della tristezza a un certo punto, perché io l'ho preciso, lo sapete tutti, però io sono nato nel 1972 e ho iniziato a vedere i cosiddetti cartoni animati, li chiamiamo con le virgolette, vedete le virgolette anche se stavamo per radio, i cartoni animati giapponesi che sono arrivati alla fine degli anni 70, insomma 78, 79, adesso non ricordo bene, no? Io mi ricordo il primo che ho visto è Goldrake, che tra l'altro lo so, arrivati anche un po' ad Gatsum, perché è arrivato Goldrake, poi dopo è arrivato Jig Robot, Gig Robot, che era praticamente la risposta di Mediaset, quella che allora non so se si chiamava già Mediaset, a Goldrake, no? Cioè, e che noi diciamo, ah, è la copia di Goldrake, capito? In realtà erano due cartoni animati completamente diversi, con due, però insomma eravamo ragazzini, ero ragazzino, quindi però mi piacevano molto, mi piacevano i disegni, mi piaceva vedere come erano fatti. Poi c'erano sempre queste esplosioni nucleari, vi ricordate le esplosioni che erano sempre tutte accartocciate, che io pure le disegnavo, perché voi non sapete, ma io quando ero ragazzino ero in fissa e non c'era un quaderno che io avessi che non aveva i bordi con i cartoni animati, cioè mi disegnavo i cartoni animati frame per frame. E devo dire che oggi, che se prendo una penna in mano mi casca in automatico, mi domando come cazzo facevo. Cioè, evidentemente certe doti poi un po' si perdono se non le coltivi negli anni, no? Quindi facevo questi cartoni animati che potevano essere le auto che sbattevano, c'erano queste esplosioni nucleari proprio tipiche, insomma, dei cartoni animati giapponesi, oppure uno che si tirava giù i pantaloni e mostrava il culo, non lo so perché facevo sta cosa, che comunque in qualche maniera, insomma, mi piaceva fare. E quindi fine anni 70, nati nel 72, quindi avevamo insomma 6 anni o 8 anni quando abbiamo cominciato a vedere i cartoni animati, e appunto cartoni animati venivano considerati tali perché erano fatti in animazione, e quindi per i nostri genitori, per chi proponeva il prodotto, per chi insomma lo distribuiva, era roba per bambini, no? E questa è una cosa, insomma, di cui abbiamo discusso e parlato 50 milioni di volte, quindi lo sapete, insomma, che era così. E però no, in realtà non era così, ma io un po' già da ragazzino, un po' la domanda, perché io quando ho visto per la prima volta come si chiamava l'amica de Actarus, quella che usciva pure lei nel con la strana vicella, che c'ha queste cosce de fuori, con queste tette prominenti. Io insomma qualche pulsione ogni tanto facevo, non è che mi facevo domande, ah, ma questa, però insomma le guardavo e non dico che mi ingrifavo perché ero ancora ragazzino, però insomma un po' di turbamento, no? Cioè te lo portava, no? E quindi, cioè, alla fine, cioè, questa cosa, che sti cartoni animati poi alla fine non erano poi così tanto per ragazzini, forse poi ce lo siamo fatto venire poi dopo negli anni, no? Forse, ecco, diciamo poi dopo Mediaset, quando li comprava tutti a un certo punto e li distribuiva ovviamente nei vari network anche locali, li censurava, li taglia e cuciva, perché tanto oramai comunque alla gente gli piaceva vederli e non si poneva nessuno il problema. Non c'avevamo la cultura, non conoscevamo gli autori, non conoscevamo niente poi fondamentalmente, no? Quindi se Candy poi in realtà quello era lo zio Albert e non era l'uomo di cui poi lei si è innamorata e via dicendo, insomma, c'erano tutta una serie di cose un po' strane che i giapponesi volevano imporci nella nostra cultura e volevano condizionare, ecco, la nostra cultura cristiana. E insomma, alla fine è là che insomma succedono un po' di patatrac. E poi io mi ricordo che i nostri genitori ci lasciavano guardare sta roba, beh, alla fine comunque, cioè, non è che facevano niente di male, ma soprattutto alcuni cartoni animati se li vedevano pure loro. Io mi ricordo Titan 3, mio padre se lo vedeva con me. E io pensavo che era perché era divertente, perché era un po' ispirato a 007, perché c'erano comunque delle gag, no? Dell'ironia. In realtà mio padre se li guardava c'erano le zinnone, cioè diciamoci la verità, insomma, no? E tutto sommato mi domando come biasimarlo, no? Cioè nel senso, d'altronde questi provocavano, che fa? Provoca? Insomma, aspettate che sto sistemando una cosa. Credo di averla sistemata. E quindi niente, cioè, succedeva che noi ci guardavamo sti cartoni animati un po' con i nostri genitori, un po' da soli, nessuno ci diceva niente, però esplosioni, morti, gente che finiva male, tristezze inverosimili, un viaggio nel mondo della depressione, ecco, a volte, perché cioè, c'erano delle cose tipo Candy, ma poi dopo ne parliamo, c'è un paio di esempi che vi voglio fare, perché secondo me al di là dei cartoni animati iperviolenti di cui iniziamo a parlare, c'erano poi i cartoni animati ipertristi, c'erano da roba, cioè dico, boh, io mi sono sempre domandato come potesse essere possibile, però io direi che possiamo iniziare senza nessun indugio dal primo di cui voglio parlare, che poi è stato un po' il protagonista ieri sera, insomma. Dai, che amici, è grande la bontà, ma con nemico Vabbè, intanto rubo la base a Michela perché per una questione di praticità, ecco, diciamo, quindi non se ne avvenga con Disordinati Informati. Domani mattina, ore 8:30, Disordinati Informati. Domani pomeriggio, ore 17, Walter Sbano con Prova Microfono. E domenica 21 novembre, giusto? Dicembre? No, perché 21 novembre è passato. Domenica 21 dicembre avremo intervista a Kayla Dahmer, parleremo di tante cose, intelligenza artificiale, narrativa, scrittura, fantascienza, un po' di tutto, insomma. Quindi tenetevi, segnatevi queste blitzens. La Furio Camillo, allora, dice che il Trianon, no, ma non è il Trianon, tra l'altro è stato uno dei primi cinema nella mia zona, ma in generale a Roma, che hanno cominciato a mettere gli impianti audio con i controcoglioni, veramente bello. No, io parlavo di quello che stava proprio vicino lì all'Alberone, quello grosso, il cinema, adesso non mi ricordo come si chiamava, però vabbè, comunque salutiamo anche Luca S, salutiamo anche Valerio Galano che ci dice grandissimo Naoto, io non so minimamente chi sia, che sappiate che io sto parlando di cose di cui non so niente, figura molto più profonda di quanto noi possiamo capire da piccoli, sì, ma io aggiungo anche figura molto più profonda di quanto potessi capire io adesso, cioè non è che mi è cambiato tanto a me nella sostanza. Salutiamo appunto Luca S, salutiamo ovviamente anche Mago Oslo e salutiamo ovviamente Mr. Zero, tra l'altro Kayla Dahmer che sta un po' spoilerando con il suo avatar la questione, perché se ieri sera voi entravate dentro un pub che si chiamava l'Antica Locanda e vedete un tavolo di gente che roteava la capoccia, non vi sareste dovuti fare delle domande, non avreste dovuto farvi delle domande. Al massimo potevate unirvi, insomma, diciamo, a questo delirio, un po' così, insomma, un po' una storia, una brutta storia, che di cui adesso andiamo a parlare. E avete sentito quella che era la sigla italiana dell'Uomo Tigre, no? Questo cartone animato, ecco, appunto. E questo cartone animato molto, molto particolare, devo dire, è molto di quelli proprio vecchia scuola giapponese, con i disegni un po' squadrati. Se voi vi ricordate il protagonista quando era vestito normale in giacca e cravatta, c'era questo spallone, sto cravaccio, è proprio, cioè, molto, molto come design, è veramente molto molto antico, insomma. D'altronde loro fanno manga e anime dagli anni 60-70, insomma, quindi noi poi alla fine sono arrivati molto tardi da noi, ne abbiamo visti alcuni vecchi quando per noi già cominciavano, per esempio prendete Astro Ganga, no? Astro Ganga da noi è arrivato abbastanza tardi, ma come design era veramente un cartone animato molto vecchio, cioè nel senso cartone animato, poi sarebbero anime, no? E comunque, vabbè, parlando dell'Uomo Tigre, tu sentivi la sigla dell'Uomo Tigre e che ne so, mamma ti lasciava davanti al televisore, l'Uomo Tigre ci vuole bene a tutti, e quindi dice, ah, vedi che carino, insomma, dei bei messaggi. Poi splash, splash, sbudello, sangue, schizzo di sangue dappertutto, cioè il combattimento, i combattimenti erano veramente truculi. Poi lui era tipo un assassino che faceva parte di una setta d'assassini che si chiamava la Tana delle Tigri. Poi aveva tradito, perché poi lui in realtà era un buono, quindi voleva bene i bambini, l'orfanotrofio, non lo so, insomma. Poi lui quando combatteva si domandava, ma se io quando combatto uso la violenza, cazzo, sai a fa il wrestling più, come cazzo si chiama sta lotta che facevano, sai a fa la cosa più trula, te stanno a squarta in due, sgoccioli sangue, e dici no, ma io però se faccio il cattivo poi che esempio do al bambino che mi sta guardando, cazzo, il bambino a quell'ora fatelo sta a dormire, vaffanculo, così come doveva essere anche per noi, cioè nel senso discernete, ma i giapponesi questa cosa non devono imparare, insomma, a vivere nel dolore, nella sofferenza, no? E questa è una cosa che poi si ripercorre in una maniera costante su tutti quanti i cartoni animati. E tra, io veramente l'Uomo Tigre me lo ricordo poco, anche se me lo guardavo. Allora, devo fare una precisazione, l'ho già detto, penso, in altre occasioni. Io preferivo le cose buone, cioè io tra l'ape magà e l'ape maglia, io preferivo l'ape maglia. Dici, ah, ma che palle, l'ape maglia. E invece l'ape maglia era colorata, sorrideva sempre. Ma io penso, cioè, nel senso, c'eravamo tanti cazzi, no? Cioè, già da ragazzini, io poi, purtroppo, nella mia vita ho dovuto affrontare tante questioni, tante problematiche, tante battaglie, quindi alla fine se dovevo vedere un'ape che piagneva e l'ape che rideva, preferivo l'ape che rideva. Quindi io tutti questi cartoni animati con la violence, si sgurgavano, si sbullellavano, se le promettevano e se le davano, non è che mi facevano proprio un pazzino. E la stessa cosa vale per l'uomo tigre, però l'uomo tigre da una parte c'era qualcosa che mi affascinava, perché rispetto ad altri cartoni animati di cui andremo a parlare fra poco, l'uomo tigre c'aveva un suo nonché di realistico, chiamiamolo realistico, penso realistico, cioè nel senso era comunque più credibile rispetto a tanti altri, no? Cioè se voi ci pensate, alla fine sta a parlare di un combattente all'interno di un mondo dei combattenti, in una disciplina di combattimento, insomma, dove, che facevano un po' tutto quel cazzo di pareva. Poi mi faceva ridere perché ci sono delle scene dove, ah, ma questa cosa non si può fare, però non c'era qualcuno che diceva non si può fare, capito? Cioè loro facevano lo stesso, non fa niente, non si poteva fare, quindi non ne frega un cazzo. E quindi l'uomo tigre combatteva con due o tre persone, poi c'è sempre qualcosa di sessuale, cioè di cose che se s'avvinghiavano, facevano ste mosse un po' tipo ritmiche, capito? Quando combattevano c'è una scena che l'uomo tigre è insandwichato tra due, quindi cioè è una esplicita manifestazione sessuale, secondo me. Però vabbè, queste sono un po' cose. Però io, dell'uomo tigre, se voi vedete, quale puntata ti ricordi? E nonostante tutto, cioè che io non, veramente ho mente lui, ho mente che si combatteva, però non mi ricordo un cazzo l'uomo tigre, poca roba. Mi ricordo lui quando era vestito giacca e cravatta, che era un armadio, non si poteva guardare, insomma, no? Ma non perché era grosso semplicemente fisicamente, ma proprio perché era proprio quel tipo di design un po' squadrati. E qual è la cosa? Io mi è rimasto sempre in mente il combattimento con un particolare personaggio, che è quello insomma di cui si sta insomma facendo menzione estetica, diciamo, è l'ape maglia. Sì, l'ape maglia, bella l'ape maglia. Anch'io preferivo l'ape maglia, meno male, perché mi sento sempre solo. Tutti mi dicono: no, ma che palle l'ape maglia, ma che scherzi. E il combattimento contro il più grande nemico per me era dell'uomo tigre, perché mi ricordo solo quello, e che mi è rimasto tanto in mente, che ieri sera tutti volevano per forza farmi credere e convincermi di un falso storico, ossia che si chiamava Mister No, e per me è un falso storico. Cioè secondo me dovrebbero andare su Wikipedia e trasformare la pagina di Wikipedia e dire Mister No, anche più popolarmente conosciuto come l'uomo pisello, perché quello era l'uomo pisello, regà. E cioè tu vedi questo qua con tutto glabro, senza la faccia, con sta parte finale del pisello in testa, era un testa di cazzo fondamentalmente, e c'era sta testa e faceva brrr, brrr, e quindi noi ieri sera siamo stati tutto il tempo a far così, rimembrando i vecchi fasti dell'uomo pisello, che l'uomo pisello era un personaggio incredibile. E poi mi domandavo pure come facesse a combattere, tutto sommato, perché la testa non era veramente la testa, no? A un certo punto mi pare che, se mi ricordo bene, a un certo punto l'uomo tigre gli stacca la testa, e a posto della testa c'era questa enorme boccia di metallo, tipo, che ne so, una palla da bowling. Adesso non ricordo, insomma, perché c'è un punto, una scena proprio dove dice: ma ha la testa durissima, e grazie al cazzo. Scusate, non volevo fare affinità e assonanze col cazzo, però è l'uomo pisello che là, tutto si dondolava e tutti si domandavano come fa, e che era una violenza incredibile. L'uomo tigre stava là, si faceva delle domande: ah, ma il bambino se mi guarda, e quello sbraia le sedie, le panche, ah, fortuna che la scala si era appena rotta, altrimenti mi avrebbe ucciso, ammazzalo cazzo, cioè sei lì, no? Nel senso, fai, e l'uomo pisello che stava lì. E quindi per me tutti quelli che continuano a dire che si chiamava Mister No dicono un falso storico. E anche se fosse veramente così, secondo me bisognerebbe fare una petizione di revisione storica per dire che questo personaggio non si chiamava Mister No, ma si chiamava l'uomo pisello, anche detto l'uomo chiamato pisello, perché era palesemente, insomma, un uomo che ammiccava incredibilmente. Ma dato che Kayla Dahmer, ho visto che insomma ha cambiato temporaneamente, immagino, la sua foto profilo, volevo dirvi che ho scoperto una cosa, ragazzi, perché ragazzi non si finisce mai, non si finisce mai di imparare, ma vi voglio linkare, datemi un secondo, copia immagine. Vi volevo mostrare il fatto che noi, sapete, cioè, nel senso, alla fine ridiamo un po' di tutto questo che è un po' pittoresco, ci stiamo scherzando sopra, con tutto il rispetto di tutte le persone che sono iper innamorate di sta roba, cioè sta roba nel senso positivo, di questi cartoni animati, questi anime, della storia, dell'animazione giapponese, quindi per carità. Però poi ci sono delle cose che io penso in Italia non siano mai arrivate, grazie al cielo, perché questo qua, secondo voi, che vi ho appena messo in chat, che potete tranquillamente vedere, è un action figure, un giocattolo o è un dildo per donne? Io o per uomini anche, perché ho detto, insomma, cioè, domandiamoci questa cosa, è un giocattolo di che genere? Questa è una cosa della quale dobbiamo assolutamente domandarci, e io vi lascio con questo enorme, incredibile interrogativo sull'uomo pisello in figura, in action figure, insomma, che accompagnerà le nostre notti, penso. E quindi, se qualcuno di voi ha nella sua roba di collezionista, aspettate, ok, se qualcuno ha nella vostra roba di collezionista, insomma, un action figure dell'uomo dildo, fatecelo sapere, che magari qualcuno è interessato, insomma, quindi noi siamo disposti ad aiutarlo nello smercio. Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria lassù di noi, guerriero vai. Allora, intanto Valerio Galano ci dice che la cultura del sacrificio per il prossimo dei giapponesi è una cosa che noi occidentali non possiamo capire, ma in realtà ci sono tante cose che differiscono proprio concettualmente, culturalmente, le nostre civiltà, tra virgolette, perché secondo me c'è proprio una separazione proprio netta dal punto di vista etico e culturale, e soprattutto anche sociale. Io devo dire la verità, l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo, non sono un estimatore della società giapponese in generale, e più approfondisco determinate tematiche più mi rendo conto che è una visione distorta dell'esistenza, che però è da rispettare, perché ovviamente è la loro visione dell'esistenza con la quale loro hanno costruito la loro società e ovviamente anche il loro rapporto civico con quello che li circonda. E tante distorsioni che a me non piacciono in generale, perché sì, il sacrificio per gli altri, ma anche il sacrificio a prescindere, no? Cioè, nel senso, poi ci sono tutta una serie di cose. Se voi guardate un cartone animato, io li chiamo cartoni animati, insomma, dello studio Ghibli, Una tomba per le lucciole, che è molto drammatico, iper drammatico, però fa vedere un po' quella che è un po' la cultura giapponese, cioè, nel senso, che comunque se sei integrato all'interno di un contesto, altrimenti ti ignorano, cioè sei completamente alieno, così come alieno è un po' tutto il mondo occidentale, no? Nel senso che sì, loro da una parte ammiccano e lo guardano con interesse, la moda e tutto quanto, dall'altra c'è magari la parte più chiusa generazionalmente, che magari ha proprio una visione molto chiusa proprio della società, no? Ma questo lo raccontano anche tante persone che ci vivono direttamente in Giappone, le difficoltà che trovano anche dal punto di vista burocratico a rimanere e a farsi una vita in Giappone, no? Comunque, vabbè, non è di questo che volevo parlare. Tanto salutiamo anche Luca Francesca. E fa piacere che stai qua. Ah, addirittura Gianluca Sansò si è sbucato fuori, così quando si parla di cartoni animati sbucano fuori tutti. E giustamente Keila dice: vabbè, è un po' piccolo per essere l'uomo dildo, no? Sì, sì, ma sai, c'è sempre gente che si accontenta. Comunque, come si passa da Tiger Man, da l'uomo tigre, diciamo Tiger Mask, poi sarebbe, se non ricordo male, a Kenny Guerriero? Si passa in un modo abbastanza semplice, cioè due cartoni animati che hanno una visione, anzi che proiettano una narrazione molto violenta, che diciamo affrontano due strade completamente diverse. Una pseudorealistica, diciamo, con una storia anche coinvolgente da un certo punto di vista emotivo ed empatia, che poi alla fine comunque costruisci col personaggio che è l'uomo tigre e l'altro che è completamente sdirazzata nel fantastico, quasi nel fantasy, no, da un certo punto di vista. E fantasy perché ovviamente prende quelli che sono gli stilemi, no, del cinema americano post-apocalittico, tipo Easy Rider, queste cose qua, insomma, no? E praticamente li riporta in un contesto, diciamo, tipicamente giapponese, dove comunque il mondo è finito, c'è devastazione. E ci sono queste casate che non sono delle vere e proprie casate, ma sono delle scuole di combattenti. Scusate, ma non ho capito se ci sono dei mostri dentro casa o se è qualcuno di sopra che... Vabbè. C'è stato un momento di inquietudine, ho sentito un rumore bruttissimo con le cuffie e mi sa che sono quelli di sopra che hanno stracinato cose. E vabbè, dove ci sono questi personaggi che si combattono fra di loro, tipo Mortal Kombat praticamente, dove c'è il re del mondo, la scuola Dokuto, le sette stelle Dokuto, ognuno ha la sua tecnica di combattimento. E vabbè, ma se non la smettono di spostare cose, mi fanno piovere i colpi, muoio. E io me lo ricordo pochissimo Ken il Guerriero, perché Ken il Guerriero ha maggiormente rispetto a l'Uomo Tigre, in realtà l'ho visto veramente, veramente poco. E devo dire che era troppo per me. Io da ragazzino, come dicevo, ero più ape maglia, no? Quindi insomma era veramente troppo per me, perché non solo non ci ho mai capito niente dalla storia, ma non l'ho mai manco seguita più di tanto, no? Anzi, devo dire che ultimamente chissà perché a 40 anni di distanza mi sta venendo la voglia di riprendere, cioè di guardarlo proprio integralmente, di guardarmelo, così come mi è successo con un altro cartone animato di cui parliamo dopo, che mi è rimasto magari l'input dentro di me e crescendo, quindi maturando un po' la mia posizione, poi alla fine comunque dice sì, vabbè, però poi nel senso esploriamolo, no? Cerchiamo di capire anche, no, di che cosa si tratta, no? Però a me quello mi faceva ridere. A parte che sono abbastanza convinto, e qui chiedo ai più esperti, che c'è un uomo pisello pure dentro Ken il Guerriero, cioè deve essere per forza, perché poi sti cazzo dei personaggi vestiti in una maniera improponibile, tu non c'è un cazzo di uno che è vestito in un modo che dicevo, con le spallette, cioè cose proprio tipo marziani, cioè cose che gli piaceva proprio ai giapponesi, sti vestiti un po' naif, un po' omosessuali pure, con tutto rispetto e senza ovviamente fa un senso critico, no? Cioè, però era un po' quella cultura pop un po' ipercolorata, no? Che andava di moda un po' negli anni 80, no? In qualche maniera, anche se penso che sia abbastanza ben antecedente agli anni 80. E questi praticamente sono mi faceva ridere, perché praticamente io, cioè, ragazzi, stiamo a scherzare, cioè, non va a prendete, perché io la vedo per come l'ho vissuta io, cioè mi faceva ridere il fatto che questi si chiacchieravano, oh, sei arrivato, hai sbagliato a venire qui, adesso è l'ultima cosa che tu farai. E lui rimaneva impassibile, no? E quelli rimanevano, ah, come? Non ti ho fatto niente, allora è vero che la tua tecnica è superiore alla mia. E quello solo guarda e gli dice, sì, fra 7 secondi scoppi. Ma come? Che cazzo stai di a certo? Esplosioni, persone che si dilaniavano, si squartavano da sole, cioè le cose. Ma io dico, ma pure, cioè, ok, la differenza con la cultura giapponese, ma pure sti giapponesi, no? Giapponese, che cazzo siamo dati? Perché poi, cioè, ma veramente era roba tosta, cioè. Poi era un po' edulcorato, nel senso che brillavano, esplodevano, no? Cioè, se ogni tanto si vedevano squarti di sangue, però diciamo cercavano di camuffarlo con i colori, con l'esplosione di luce, con le cose, no? Però tu vedevi questi qua che a un certo punto gli si apriva la testa in due, no? Cioè, delle robe incredibili. E poi mi facevano ridere le tecniche, che ho scoperto recentemente che in Italia sono state sempre tradotte un po' a cazzo di cane, no? Però per quanto possano essere tradotte a cazzo di cane, le tecniche erano comunque assurde, no? Chiaramente, e ci siamo, no? Però mi faceva ridere che si trovava uno di fronte all'altro, poi a un certo punto tecnica dello sdoppiamento anale, e si vedono questi effetti speciali e cioè non c'è niente, cioè nel senso non, che cazzo di tecnica stai a fare, cioè che cos'è la tecnica, definisci tecnica prima di tutto, e poi si fermavano, non mi ha fatto niente, capito, penso che insomma vabbè, volevo sapere che cosa ne pensavate, se esiste un uomo pisello anche sul Canil Guerriero. E prima di leggervi, adesso vi metto un brano che mi porterà a parlare invece di un cartone animato che ho esplorato un po' di più. Mi lo ricordo poco perché non l'ho fatto recentemente, però l'ho riesplorato perché proprio il mood triste, angosciante, a volte proprio di solitudine, di mistero, sì, ma quel mistero che andava un po' di moda, diciamo tipo Spazio 1999, per capisse, no? Cioè, c'è un mostro che nell'astronave, e tra l'altro c'è una congiunzione, no? Perché ci sono gli Oliver Onion in mezzo, che hanno fatto 150 milioni di sigle per tutti, e a volte alcune l'hanno riciclate, l'hanno anche apertamente detto, perché poi quando tu ti sentivi sta sigla di sto cartone animato e poi magari ti trovavi a vedere un film di Bud Spencer e dici c'è qualcosa che non va, però insomma ragazzi, questa era roba strana, particolare, veramente narrativamente molto più strutturato, non so se era un romanzo, non so cosa. Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy. E vabbè, Galaxy Express 999999, non mi ricordo. Comunque vabbè, diciamo che questo è particolare, cioè questo è particolare, però facciamo un attimo un excursus, perché come giustamente scrivono in chat, fa parte dello stesso universo di Capitan Harlock, sì, non solo, poi vabbè, lo vediamo un attimo molto brevemente, ma Capitan Harlock era il personaggio che aveva più fascino verso di me, cioè nel senso io provavo più fascino in tutto l'ambaradam della roba giapponese. Perché? Perché quando ero ragazzino Capitan Harlock era sto personaggio oscuro, il cartone animato stesso te lo descriveva come un furfante, un fuorilegge, come se fosse qualcosa, e nella mia mente di bambino un po' indirizzato nella società cristiana dice però che brutto e cattivo Capitan Harlock, però se è brutto e cattivo ma mi affascini, no? Cioè nel senso proprio questo personaggio così oscuro, che così carismatico, no? Poi però è successa una cosa che non doveva succedere, ragazzi, perché poi a volte io vi suggerisco, se avete una cultura di sta roba, ok, se non avete una cultura di sta roba e vi viene la curiosità, lasciate perdere, perché io e Gualdi qualche anno fa abbiamo provato a fare un esperimento su Twitch e poi ci hanno bannato praticamente di riguardare tutto Capitan Harlock e commentarlo in tempo reale, e ragazzi è stato un disastro. Tutto sommato è stata un po' una morte, è come l'eroe che tu c'hai, che leggevi, che ne so, il protagonista dell'Isola del Tesoro, no? C'hai questa immagine che ti costruisci e poi dopo ti fanno un libro dove lui muore cagando di incontinenza deretana, no? Cioè nel senso, cioè è la stessa cosa che è successa con Star Wars, no? Tu sei cresciuto col mito di Han Solo e poi a un certo punto in un film te lo fanno morire come un vecchio scureggione stronzo, rincoglionito, de merda proprio, cioè senza dargli rispetto al personaggio. Ma io lo capisco che J.J. Abrams è un pazzo psicopatico di merda e che spero che tutte le generazioni dopo di lui facciano una fine di sterminio totale, no? Perché proprio questa mancanza di rispetto nei confronti di certe determinate cose proprio non l'ho mai potuta sopportare. Ma Capitan Harlock in realtà non ha mancato di rispetto a nessuno. Capitan Harlock era quello che era, eravamo noi che eravamo ragazzini, quindi ci guardavamo questa cosa e vedevamo lui, vedevamo l'aliena senza volto, e c'era questo mistero, questa cosa un po' spettrale, un po' da cosa nello spazio profondo, che poi quella alla fine degli anni 70, regà, io poi ero invasato della roba dello spazio, dei misteri dello spazio, della fantascienza, delle cose ritrovate nello spazio, no? le cose tutte, era tutto, cioè voi prendete Spazio 1999, regà, è una serie della Madonna se voi ci pensate. Poi dopo la seconda serie va bene, cioè nel senso può avere tanti problemi, cambiano personaggi, cambiano cose, però cioè, era figo, cioè ho visto recentemente tanti film, cioè voi pensate a Forbidden Planet, no? Cioè nel senso Il pianeta proibito. Cioè, era un film della Madonna, raga. Cioè, questo senso di mistero, delle civiltà aliene, no? Cioè, era fighissimo, no? E questo spirito lo riportavi un po' in tutto. E Capitan Harlock un po' si portava dietro tanta di sta roba, no? Però poi dopo tu te lo rivedi da grande e vedi che Capitan Harlock non era nient'altro che il capo della banda dei coglioni. Cioè, i capi dei governo erano degli scemi, imbecilli, proprio. Poi tutti... cioè questa cosa, no? E tutti i sottoposti di Capitan Harlock erano delle patate ambulanti che camminavano e dicevano stronzate, tutti imbecilli erano fondamentalmente. Quindi alla fine, cioè, Capitan Harlock, di chi cazzo sei il capo? Sei il capo de... E quindi questa figura carismatica di Capitan Harlock mi è venuta morendo, cioè un po' alla fine, insomma, tutto sommato, no? E mi è dispiaciuto, perché devo dire la verità, mi è dispiaciuto perché per me era Capitan Harlock, oh. Tant'è che poi alla fine molti l'hanno criticato, ma il film in CGI che hanno fatto recentemente, qualche anno fa, una decina d'anni fa, non so quando, io me lo so guardato, tutto sommato a me non mi è manco dispiaciuto. Secondo me gli ridà un po' di dignità a Capitan Harlock, che se l'è persa per strada. Ma poi c'erano delle scene, regà, una volta ci faccio proprio una puntata intera su sta roba con Gualdi, perché mi sa che ne abbiamo già parlato, però ne voglio parlare di sta roba perché merita di essere parlata. E quindi nell'universo di Capitan Harlock c'era spazio, no, c'era appunto Galaxy Express 999. Che era figa l'idea, perché se Capitan Harlock in realtà viaggiava in una nave che fluttuava nello spazio, vabbè, questo l'abbiamo visto pure con Yamato e via dicendo, che più o meno penso sia sempre un po' lo stesso contesto, ditemelo voi perché potrei dire una stronzata. E l'Arcadia, io me lo ricordo, ce l'avevo pure a casa, c'è il modellino bellissima de ferro, ragazzi, quando i giocattoli facevano de ferro era proprio bella, ero innamorato di quella roba. E invece questo è un treno che parte da una stazione normale e se ne va a fanculo nella galassia. E la storia, raga, è tristissima. Tra l'altro, non so se vi ricordate, prima abbiamo fatto menzione di Titan 3, no? C'era la controparte di Titan 3, che era uguale a Titan 3, solo che invece che il sole c'era la luna, che era un cartone animato, ragazzi, di una... Io oggi lo definirei deprecabile, cioè la gente moriva male, cioè i cosi, gli attacchi kamikaze con bomba, gente che moriva proprio brutto, cioè proprio... Cioè se tu pensi che noi sta roba la rivedevamo da ragazzino, cioè culturalmente per quanto sia, ma quanto ci possa avere... così, Sansò ha postato il capotreno lì. Che era un po' questa cosa, mi ricorda un po' i maghi azzurri de coso, de Final Fantasy, non so se vi ricordate, che hanno il cappello e c'hanno soltanto l'occhi, no? Poi fondamentalmente, ragazzi, vi leggo dopo perché adesso parlare e leggervi è un po' complicato, però vedo c'è pure Morris, insomma vedo che state dibattendo di questa cosa. E la storia è di sto ragazzino che mi pare che per qualche motivo lui è povero e vorrebbe prendere il biglietto del Galaxy Express perché vuole andare nel pianeta dove le persone possono diventare dei robot, o perlomeno insomma, perché praticamente è un modo per vivere meglio, dato che insomma tutti vivono nella miseria, veramente me lo ricordo pochissimo, però l'obiettivo di lui è quello di andare in questo pianeta e trova questa donna che lo aiuta, no, a salire sul treno e lo accompagna durante tutto questo viaggio, e nessuno, compreso lui, si domanda il perché, se non il fatto che lui avrebbe una tastata Etsin, insomma, fondamentalmente. Mi pare che poi tra l'altro lui tipo si innamori di lei, insomma, mi ricordo, poi sai, con questi cartoni animati non è che si capisce poi l'età dei personaggi. E durante tutto questo viaggio, ogni puntata loro fanno sosta in un pianeta, in un contesto, in una situazione, sono tutta una serie di storie sempre drammatiche, sempre particolari, che tutto sommato devo dire che quel cartone animato ha mantenuto invece l'atmosfera e il fascino che c'aveva quando ero ragazzino. Se lo riguardi oggi, anzi con maggiore consapevolezza, l'inquietudine che ti dava oggi è la stessa, soltanto che gli dà praticamente più profondità, nel senso gli stai dando praticamente più valore anche concettuale, cioè lo comprendi meglio. Prima era solo una cosa di percezione, no? di angoscia personale che tu vedevi in certe scene, tipo quando loro il treno era completamente vuoto, poi, oppure quando trovano solo scheletri o che cazzo, insomma, poi c'è cose dei terroristi che insomma tutta una serie di guerre, no? E poi lui arriva a destinazione e quindi guardatelo, ragazzi, perché è veramente roba basta, apriamo un canale YouTube di cucina burina. Aspetta, ok, Walter Sbano che mi sta scrivendo da un'altra parte, ok, poi lo leggo bene. Sì, ah beh, sì, il robot che spara Ezin è... Vabbè, ma c'era anche, qual era il robot che apriva il cassetto all'altezza del cazzo e sparava i missili del cazzo? Che poi vabbè, non era proprio altezza del cazzo, tipo sul linguine, insomma, missile linguinale. E vabbè, comunque io ve lo consiglio Galaxy Express, ragazzi, perché è particolare, secondo me è artisticamente una bella opera. A me non piacciono quel tipo di disegni alla Capitan Harlock con questi personaggi super deformed, con queste facce da patata che... Poi c'è questa contrapposizione tra i personaggi iperrealistici, o perlomeno più realistici, e i personaggi a capoccia a patata. È una cosa che non mi è mai piaciuta. Però artisticamente, dal punto di vista dell'animazione, delle ambientazioni e della narrazione, è veramente particolare. Io ve lo consiglio. E nulla vieta a sognare il fatto che ci sia un nuovo pisello anche lì, io immagino. Vabbè, maga, allora, dicevo, insomma, che ne avrei voluto parlare perché poi in realtà, se volete, ci organizziamo con Walter Sbano, con altre persone, e facciamo magari una sera uno specialone, che voglio chiamare proprio nel vortice della disperazione, si chiamerà così, quindi diciamo, ma questo titolo non attirerà nessuno, lo so, è vero, non attirerà nessuno, ma secondo me è proprio questo, perché poi alla fine... Se nei film americani non c'è un Cristo che non è divorziato, nei cartoni animati giapponesi non c'è un Cristo che non è orfano. Tutti, e questo probabilmente se lo riportano un po' dalla Seconda Guerra Mondiale, che comunque li ha profondamente influenzati, no? Da un certo punto di vista pure creativo, ma non soltanto, secondo me anche ovviamente le bombe nucleari hanno profondamente influenzato la cultura giapponese, e sarebbe assurdo ipotizzare il contrario, no? Cioè, nel senso... Come puoi pretendere che non sia così, no? E però, alla fine, devo dire che al di là di quelli che comunque, che ne so, i robottoni che combattevano, la speranza, la giustizia, la libertà e tutto quanto, in realtà c'è veramente un filone di roba, di depressione, morte e disperazione. Ma depressione, morte e disperazione nel senso più... letterale del termine. Voi ve lo ricordate Remy? Che è vero che Remy è una storia preesistente, che ci fu anche un lungometraggio quando ero ragazzino, però cioè Remy, raga, di che cazzo stavo a parlare? Ma poi su prendi l'ape magà, che tra l'altro era, giustamente ricordava Marco Gualdi ieri sera a cena, era un fuco, non era un'ape femmina come noi siamo abituati a pensare, oppure per esempio con l'ape maia, che è palesemente un'ape femmina. Cioè, l'ape maga, noi pensavamo che fosse femmina, in realtà non è femmina. Ma poi, pure qui, no? Cioè, a parte che applicare la logica della cultura giapponese dell'orfanismo, che aiuta sempre a drammatizzare le cose, non funziona, perché... Cioè, le api non hanno una madre né un padre, cioè, nel senso, è un po' diverso come tipo di concetto e va bene, però loro lo volevano applicare a qualsiasi cosa. Ma l'Ape Maga, che c'ha questa sigla che abbiamo sentito, la versione italiana, non so com'è quella giapponese, che è la più fuorviante in assoluto, perché tu ti aspetti comunque che sia una cosa un po' tipo l'Ape Maga, capito? Cioè, nel senso, fai capricci, fai dispetti, ma che cazzo state a dire? Ma questa non so, è praticamente l'Ape Maga è la signora in giallo in versione ape. Cioè, dove va lei c'è una tragedia che non finisce mai, e la sua tragedia è sempre peggiore. Non c'è un cazzo di momento in cui sta per non piagne. Sta sempre a piagne e finisce la puntata che piagne, perché non mi ricordo manco qual è la sua missione. Dove cazzo vai, Ape Maga? Cioè, dove vai in giro per il mondo a rompere i coglioni? Cioè, io non lo capisco, cioè, nel senso, ecco, c'è proprio un filone di roba completamente dedicata alle tragedie che mi piacerebbe esplorare. Vedete, faccio una bella puntata dove ovviamente magari quelli che ne sanno ne parlano in maniera seria, io sto lì e cazzeggio e più per culo, perché alla fine io questo posso fare, cara. Non è che ve la potete prendere con me, insomma, io sono qua perché ricordo le cose per quelle che le ricordo, purtroppo senza una cognizione storico-temporale o insomma un approfondimento. Non mi sono messo a leggere i libri sui manga giapponesi, insomma, però allo stesso tempo sarebbe bello appunto fare una puntata seria, però allo stesso tempo anche giocosa, senza ovviamente tralasciare l'aspetto proprio più giocoso, più divertente, insomma, della cosa. Che ne dite? Dite? Vi piacerebbe come idea? Si potrebbe fare? Io penso che si possa fare, eh. Mo adesso aspettate un attimo, sto cercando di fare una cosa e non so perché non ci riesco. Io ho sempre le cose in tempo reale, capito? Cioè, real time, noi siamo gente in real time. Vabbè, io direi che comunque questa puntata, che tutto sommato è stata simpatica, ma anche un po' inutile, diciamo, era semplicemente per stare un po' insieme un'oretta, e alla fine l'oretta l'abbiamo passata. Vi lascio con questa canzone, poi ritorno per i saluti e vi ricordo i prossimi appuntamenti che devono essere assolutamente ricordati. Nel frattempo avete il tempo di rispondermi, non soltanto se vi farebbe piacere, insomma, che la mia idea, e soprattutto se volete anche partecipare, perché magari c'è qualcuno che si propone proprio di partecipare alla puntata. Che ne dite? Che ne dite? Si sveglia il mondo, lo accarezza il sole. Si sveglia la prima dentro un fiore, apre gli occhi sorridenti, stropiccia le sue ali trasparenti. Vola, vola, vola, vola, vola la primavera, gialla e nera, nera e gialla tanto gaia. Vola sopra un monte, sfiora il cielo. Na na na na na na na na na. Vola, vola, vola, vola, vola. L'Ape Maga. Va bene, ragazzi, va bene, ragazzi. È stata una bella cavalcata qua insieme a voi, questi, in mezzo a questi ricordi, diciamo così, e vi prometto che vi farò una puntata dedicata ad Heidi, perché secondo me Heidi è un cartone animato un po' sottovalutato, che invece raccontava belle storie, ma soprattutto la cosa bella è che io da ragazzino correvo per i prati esattamente come faceva lei e speravo poi di mangiarmi le salsicce intere come faceva Peter. E quello che non ci hanno raccontato di Heidi e Peter, ovviamente, è stato raccontato in un film trash che è stato pubblicato qualche anno fa e di cui ovviamente parla Marco Gualdi e Olivia Quattrocchi su una delle puntate di Ho Visto Cose. Andatevela a ricercare, insomma, perché sapete che è uscito un film particolare di Heidi. Tra l'altro c'è un film in CGI in circolazione, mi sa, recente, forse al cinema, adesso non vedo l'ora che uscirà nelle piattaforme, me lo guarderò. Al cinema mia moglie non c'è voluta venire, mi dispiace, so dolori che purtroppo porto dentro di me, però insomma, ragazzi, la cosa divertente di tutto questo è anche fare un po' un viaggio nei ricordi, no? Nelle cose, per come ce le ricordiamo, per come le abbiamo vissute e soprattutto perché alla fine riguardarle con gli occhi diversi, tutto sommato, un po' ci fa anche sorridere, no? Cioè, nel senso. E poi invece c'è, cioè, quelli che invece la prendono sul serio e che pensano che sia giusto invece magari celebrare questa roba con maggiore rispetto. E io sono d'accordo anche con loro. Però la cosa che ci rimarrà sempre nel cuore e che condividerà un momento storico fisso nel tempo da ieri sera in poi è quello di avere un tavolo al pub con le persone che roteavano la testa. E se vi capiterà, ragazzi, quando sarete in pub con i vostri amici, incominciate a farlo anche voi. Loro si domanderanno perché, non c'è bisogno che lo sappiano, ma la cosa importante, veramente, è che lo facciano insieme a voi. E avremo reso omaggio al miglior personaggio dei manga e degli anime giapponesi di sempre, ossia l'uomo pisello. Vi ricordo domani mattina alle ore 8:30 io e Michela De Paola con Disordinati Informati, domani pomeriggio alle ore 17 Walter Sbano con Prova Microfono, e vi ricordo che sarà ospite di Runtime, non in Runtime by Night, purtroppo sarebbe stato più figo, però capisco insomma che la logistica è un po' complicata, che la Damer, parleremo di fantascienza, narrativa, di scrivere, di intelligenza artificiale, di un sacco di cazzi. E buon fine settimana a tutti, ci vediamo alla prossima.